Allora, siamo di nuovo in collegamento con la Val di Susa, vediamo gli aggiornamenti, intanto salutiamo un compagno che è un compagno di Roma. Ciao Alessandro, buongiorno, buon pomeriggio, buona giornata di lotta tra l'altro. Pronto? Pronto? Pronto, sì, ecco, adesso okay, mi sento. Adesso ci sento. Allora, una giornata di lotta, ne abbiamo dato comunicazioni fino a poco prima delle due, quindi aggiornaci ciò che è successo dopo gli scontri intorno a mezzogiorno, l'una. Allora, va bene, buonasera agli ascoltatori e agli ascoltatrici. Stamattina avevamo annunciato che sarebbe stata una giornata lunghissima e rispetto alla precedente telefonata prosegue comunque la presenza qui alla Clarea, alla Baita Clarea, di decine e decine di manifestanti, centinaia di manifestanti, insomma altre persone della valle stanno arrivando compatibilmente con gli impegni familiari e di lavoro, e continuano anche, diciamo così, le azioni di pressione o disturbo nei confronti dei nuovi lavori che si stanno, di allargamento del cantiere che vi avevamo raccontato. Poco dopo l'ultima corrispondenza, una persona è riuscita a arrampicarsi su una delle gru nuove, quindi interrompe i lavori per poco tempo, mentre altri gruppi esattamente dalla parte opposta del cantiere di fatto tagliavano nuovamente le parte delle reti della recinzione, insomma. Altre novità in questo momento non ce ne sono, se non che le forze dell'ordine avanzano lentamente verso la baita, però sicuramente non con l'intento di entrare nell'area che tra l'altro è di proprietà del movimento Notav, quanto per invece allontanare queste centinaia di persone che in forma assolutamente pacifica stanno protestando contro questa iniziativa. Molti di loro ogni tanto si attaccano alle reti e spartono le spruzzate degli idranti, in quel momento accade che gli operai devono essere allontanati, insomma un po' un batti e ribatti che dura ormai da questa mattina e che andrà avanti sicuramente ancora per tutta la giornata, insomma. Non abbiamo ancora notizia relativa alla compagna di questa mattina che è stata fermata, o meglio sappiamo che ancora non è stata, rilasciata, e per il momento siamo qui resistendo a questo ennesimo soprusso. Certo. Sì, quindi la situazione, diciamo, è di stallo, non ci sono scontri in questo momento? In questo momento proprio non ci sono scontri, insomma è un momento di calma relativa, insomma, certo, nel senso certo, che attenzione. C'è la pressione costante lì sotto e, diciamo così, non appena le forze dell'ordine allentano c'è qualcuno che si rega verso le reti, sale sopra, prova ad entrare o prova a tagliare, insomma l'obiettivo è esattamente quello di tenerli lì inchiodati, ben sapendo che dal punto di vista militare è assolutamente sfavorevole la situazione ai manifestanti, ma l'obiettivo è quello di tenerli inchiodati fino a stanotte, se non domani mattina, senza che possano respirare un secondo, insomma appena si allontanano c'è, diciamo così, la nuova avanzata delle persone che sono lì sotto le reti a manifestare in diverse forme, insomma. Senti, una cosa che avevamo, come ricordavo stamattina, una cosa che è stata già verificata martedì scorso, insomma, che la giornata iniziò sempre prestissimo e terminò alle due di notte con un crescendo di iniziative, insomma. Certo. Senti, si può quantificare, ovviamente è cresciuto da stamattina il numero dei manifestanti, si può quantificare più o meno? Adesso senti, non sono riuscito a comprendere. Dicevo, è sicuramente aumentato il numero da questa mattina dei manifestanti. Sì, lentamente nel corso della mattinata è aumentato, insomma. E quindi noi speriamo, insomma, che nel corso del pomeriggio almeno raddoppi, insomma, ci sono più o meno intorno a tutte le recinzioni diverse centinaia di persone, insomma. Perfetto, va bene. C'è una sproporzione di tipo militare, poi certo. Loro sono arroccati, hanno gli idranti, lacrimogeni, insomma così, però nonostante tutto, insomma, stiamo creando diversi diversi problemi. Insomma, questo è un momento un attimino di stallo, ma insomma presto ricominceranno le iniziative, insomma. Senti, si fa una sorta di previsione secondo, diciamo, i più, come dire, più anziani della battaglia TAV, che ormai è data parecchi anni, quale sarà il comportamento? Forzeranno le forze dell'ordine per un ulteriore diciamo spostamento indietro dei manifestanti, oppure la situazione si ristagnerà a quel suo livello? Questo noi non lo sappiamo. Diciamo che l'obiettivo è quello di completare entro stasera i lavori di recinzione dell'area che hanno appena diciamo sulla quale si sono appena allargati. Credo abbiano ricordato anche altre corrispondenze che si tratta di terreni di proprietà della FITA, la FITA mette a disposizione al Fortino per portamento di quei mezzi che un giorno serviranno all'inizio dei lavori nel cantiere. Formalmente loro non possono entrare in una parte dei terreni che confinano con quelli della FITA, che sono di proprietà del movimento NoTav. Certo. Quindi questa è un po' la situazione, insomma, per cui vedremo che cosa succede, insomma. Diciamo che oggi il cantiere assume una dimensione assolutamente difficile da controllare in termini pressanti da parte delle forze dell'ordine, perché la sua area ormai è enormemente estesa. Ci sono ampi buchi aperti che permettono ai manifestanti di intervenire a vario titolo, in vario modo, secondo le proprie modalità, insomma. Certo. Infatti da stamattina che continuano azioni di disturbo e si vedono questi protoncini che una volta corrono a proteggere gli operai, una volta devono correre a tappare un buco dentro una rete, e appena si allontanano, insomma, ricomincia la pressione. Esattamente dalla parte opposta sono costretti a muovere gli idranti, insomma. Certo. È un gioco un po' a scacchiera che, diciamo così, sicuramente non centrerà l'obiettivo di bloccare i lavori di allargamento, ma insomma anche nelle riflessioni che si fanno qui questo è solo un passaggio, insomma. Certo. Un passaggio estivo che in molti avevano messo in conto e che presenza anche di tanti compagni che vengono da fuori si riesce quantomeno a tener botta. Sono già annunciate tantissime iniziative da qui alla fine della settimana, che comunque sono iniziative di risposta a questa militarizzazione costante, insomma. Certo. Senti, il presidio che c'è giornalmente il pomeriggio sotto la regione, quello permane? Le mobilitazioni a Torino permangono. Tra l'altro c'è stata la contestazione del presidente della provincia, perché c'era quella manifestazione organizzata dai sindaci dei piccoli comuni contro la nuova manovra finanziaria, e anche lì una delegazione di compagni e compagne torinesi e militanti NoTav torinesi ci sono legati per far presente, insomma, che voglio dire, i tagli sono anche dei tagli legati al fatto che si spendono tanti soldi per un progetto assolutamente nocivo ed inutile, insomma. Quell'appuntamento è concepito proprio perché non tutti da Torino possono recarsi nel corso della settimana, arrivare fin qui ai due presidi, quello della Baita Clarea e quello del Campeggio di Chiamonte, e quindi mantengono questa iniziativa più o meno costante, cioè costante, che vede più o meno partecipazione a seconda delle giornate. Quindi anche oggi pomeriggio ci sono di nuovo iniziative, sono previste anche per domani, insomma. I fronti di mobilitazione sono bastanti, in verità tantissimi e tanti, insomma. Quindi già stasera è prevista un'iniziativa, un'altra domani, un'altra sabato, un'altra. Sono iniziative generalmente di spesso di comunicazione, insomma, quindi di disturbo soprattutto dei personaggi che sostengono alla TAV, e sono dislocati, insomma, in tutta la valle, non solamente qui alla Baita, che è, diciamo, il fronte principale di lotta, insomma. Certo, va benissimo. Quindi vabbè, una giornata di lotta comunque sostanzialmente da valutare positivamente, perché la resistenza ha funzionato, diciamo, insomma. Forse, diciamo che per le forze in campo, per lo squilibrio dal punto di vista militare, i manifestanti si stanno comportando bene, stanno comunque portando avanti una serie di obiettivi che si danno di volta in volta, felicemente, insomma. Questo sappiamo benissimo, dicevo prima, che non arresterà i lavori, ma probabilmente appunto dovranno sudarseli, anche perché c'è un sole cocente. Infatti, lo sappiamo. Va bene, Alessandro, ti ringraziamo. Casuale ci sentiamo più tardi in serata per vedere. Una notizia in più da aggiungere, che tra l'altro domani inizia il forum internazionale sulle opere inutili al presidio di Venaus. Quindi c'è anche un'iniziativa di analisi e di dibattito, discussione, approfondimento, che coinvolgerà anche soggetti un po' diversi dai comitati notato, quindi anche con dei personaggi, insomma, degli specialisti che parleranno, e anche questo è un altro pezzo che è stato diciamo riconosciuto all'interno di questa lotta, appunto, con più fronti, insomma. Certo, giustissimo. Articolare la resistenza su tutti i fronti possibili mi pare una giustissima. Finora ha pagato, e quindi sicuramente manterrà in piedi questa grande. Sì, effettivamente in questo momento è un momento un pochino difficile. Certo, è un momento di passaggio. Nota, è evidente che c'è un avanzamento delle forze di occupazione, come le definiscono qui. Giustamente, insomma. Certo. E è abbastanza difficile. Perché hanno spostato l'offensiva tutta sul piano militare su quel terreno. Assolutamente, ovviamente. Sì, perché poi dal punto di vista invece politico dell'informazione sta continuando questa campagna demigratoria assoluta su tutti gli articoli di giornale. Ecco, certo. C'è una cosa che, per esempio, non ho ricordato stamattina, ma che è successa alcuni giorni fa: il Wall Street Journal ha pubblicato un articolo su questa lotta, un articolo abbastanza complessivo, dove anche accettabile, potremmo dire, insomma, dove oltre alle ragioni della necessità del progetto, però, insomma, si riportavano anche alcuni elementi, insomma, che sono propri dei comitati. E la stampa, comunque, che è uno dei giornali più letti qui in Piemonte, invece, traducendo questo articolo, ribaltava completamente i contenuti, dicendo che anche negli Stati Uniti si erano accorti della inutilità e soprattutto dell'inefficacia della lotta dei comitati notav, insomma, per esempio. Questo è uno degli aspetti, insomma. Certo. Va bene, il mestieraccio che fanno i pennivendoli della stampa purtroppo non è nuovo. In questo caso, poiché sono coinvolti in prima persona, ci mettono, come dire, tutta la loro professionalità a scrivere il falso. È così. Va bene, Alessandro, dai, ci sentiamo stasera per vedere se ci sono novità. Ulteriori novità, o altrimenti anche domani, perché così vi potrò parlare delle altre ulteriori due iniziative che sono in programma, insomma, anche queste abbastanza impegnative. Certo, d'accordo, ti ringraziamo. Ciao, un abbraccio.